快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要 路更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱。 系上安全带哦， 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 人生与梦想的舞台，北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10:22播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧。 Oh!

Il signore che della polizia, l'assassino, come? Sia dunque, signore, le macchie vermiglie guidano un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Aver pestarmi in pugno, a terra stava. Solo colpo esplose, a parte leva il conte. Sì, inerme non usciva quel che era minacciato.

s'inseguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo! L'ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. La rivedo. Thank you. d'un bisticcio. Principessa, ci fate languir. Una porta la soffroce. Vedete, anch'io è un Oh! mezzanotte. Venga domani. Noi verremo allora. Entra molto. Addio, addio. Luccisi! Prova domani adesso. Stanotte rispondi. Sì, verrò. Grazie, tra un'ora.